edizione. Sei, 15 minuti e 34 secondi. Notizie nella notte dall'Emilia: sono state 4 le scosse di terremoto registrate, tutte di lieve entità questa notte, appunto. La più forte di magnitudo 2.4, una poco prima di mezzanotte, poi alcune appunto a ridosso di questa mattina. Questa è la notizia che arriva dall'Emilia. La viabilità, ci ritroviamo subito dopo e faremo un punto sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sei, 16 minuti e 52 secondi. Dunque, vediamo che cosa troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Troviamo naturalmente la crisi dell'euro in primo piano, come era prevedibile. Del resto siamo tra l'altro alla vigilia delle elezioni greche. I contatti, come sapete, stanno continuando ad infittirsi. Tra l'altro torneremo sul tema tra poco con i contatti che si infittiscono. Tra l'altro, appunto, c'è stato l'incontro ieri tra Monti e Hollande. Partiamo mentre alcuni giornali titolano sui mercati, altri appunto sull'incontro tra Monti e Hollande e su alcune dichiarazioni nello specifico. Partiamo con il Corriere della Sera. Perché? Perché il Corriere della Sera presenta un'intervista molto interessante, forse da questo punto di vista è l'intervista della giornata, perché è l'intervista al presidente della Bundesbank, un'intervista firmata da Marika De Feo, con la quale insomma si chiarisce molto meglio e molto più nitidamente qual è la posizione tedesca. Oltre al giudizio sull'Italia, Italia sulla strada giusta è infatti il titolo che sceglie il Corriere della Sera. Il presidente della Bundesbank, come sappiamo, custode dell'ortodossia tedesca dal lato tanto del rigore quanto del ruolo della Banca Centrale Europea, ci troviamo delle aperture interessanti, o quantomeno elementi che probabilmente nel dibattito pubblico tedesco erano ampiamente presenti, ampiamente chiari, ma insomma dei quali non si tende a parlare. Vogliamo soffermarci in particolare su un punto, il tema degli euro bond, tanto dibattuto. Si dice la Germania si oppone, in realtà Weidmann chiarisce che non è esattamente così. E perché? Perché dice: distoglie l'attenzione se si parla soltanto di Eurobond senza parlare anche di un controllo centralizzato. Il governo tedesco sta spingendo per un'unione fiscale, un sistema comune di politiche di bilancio, cercando di trovare una soluzione, e apprezzerei molto se il presidente Hollande aprisse il dibattito e discutesse sia del debito comune, sia di cessioni di sovranità e della via comune verso una nuova unione politica. Ma chiedere soltanto gli Eurobond non ci porta da nessuna parte. Il pensiero a questo punto ci sembra abbastanza chiaro, in parte espresso nei giorni scorsi anche dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Da segnalare sempre sul Corriere della Sera, e restiamo qua sulla prima pagina, un titolo dedicato all'Egitto che torna ai militari, gli islamici gridano al golpe, notizia che vi abbiamo dato poco fa nel GR, sulla quale torneremo più avanti in prima edizione. Ma a centro pagina un titolo che ha forte risalto, è dedicato ancora una volta alle inchieste sulla sanità lombarda, che ieri si sono arricchite di un nuovo elemento molto importante, tra l'altro, perché è stato indagato il direttore generale della sanità lombarda. Appalti su misura nella sanità lombarda, indagato il direttore, questo è il titolo. La procura, favori ai privati, 28 sotto accusa. Questo il quadro come potete immaginare, c'è uno spazio in prima pagina e una foto dedicata alla partita di ieri tra Italia e Croazia. È una bella foto, tra l'altro, perché è una foto che ritrae Andrea Pirlo in uscita dal campo con una maglia croata, torso nudo, con una maglia croata sulle spalle, da solo, un po' il simbolo della partita di ieri, perché è l'uomo che ha fatto il gol e forse quello che ha giocato la partita il migliore in campo, tra gli azzurri naturalmente, pari azzurro, europeo appeso ad un filo. Titolo con pezzi di Mario Sconcerti e Paolo Tommaselli. Notizia anche per l'inno di Mameli, che sarà materia a scuola sul Corriere della Sera, come vi dicevamo poco fa, mentre invece Giovanni Sartori scrive di Grillo nell'editoriale di prima pagina. Fenomenologia del grillismo, se le illusioni volano in rete, questo il titolo. La Repubblica è un titolo di apertura dedicato a Monti e Hollande, crescita l'asse Monti-Hollande, visita in Italia del presidente francese, il premier, fortissima convergenza, aste BTP, rendimento sale ancora, nuovo record del debito. L'inviato ad Atene, Ettore Livini, firma un reportage Grecia al referendum finale e un'analisi di prima pagina firmata da Amartya Sen. Europa va a scuola da Keynes, scrive Sen. Naturalmente anche qua l'Italia, come potevamo immaginare, delusione azzurra, ora i quarti sono a rischio, spazio anche all'Egitto, per il quale Repubblica parla di caos, Parlamento chiuso, è un golpe. E per quanto riguarda invece l'inchiesta sulla sanità lombarda, per Repubblica i contorni dei rapporti sono chiari, perché sull'avviso di garanzia il direttore generale Lucchini ad altri 27 scrive: sanità indagato per aste truccate, il braccio destro di Formigoni. Questo per quanto riguarda la Repubblica. Veniamo, visto che siamo sui temi appunto economici che dominano sostanzialmente le prime pagine, i temi economici e finanziari, c'è un effetto Grecia, tregua sui mercati, come titolo del Sole 24 Ore. Per l'asta i BTP triennali collocati 3 miliardi al 5,3%, lo spread scende a 462. Moria Longo firma un'analisi in prima pagina, la trappola del downgrade, ora l'allarme liquidità viene con il rating, e due economisti firmano invece gli editoriali di prima pagina, uno sulle mezze aperture, quelle di Angela Merkel, che ieri ha parlato della possibilità che alla BCE sia dato un ruolo più forte nei controlli bancari delle istituzioni finanziarie dell'Eurozona. Quindi un editoriale a firma di Marco Onado, che parla di appunto mezze aperture, la sibilla Angela e il ruolo della BCE, mentre Giacomo Vaciago firma, parla di un nuovo patto, l'Eurozona entità da ricostruire. Spazio anche al decreto sviluppo, edilizia, bonus unico al 50%, dismissioni subito 30 miliardi, fondo della cassa depositi e prestiti per le piccole aziende locali. Ora ci segnala anche Nino Amadore, è una storia che naturalmente farà molto discutere, sempre in prima sul Sole 24 Ore. In Sicilia maxi sanatoria ancora una volta per 20.000 precari, e si parla di clientele preelettorali. L'Assemblea della Regione Siciliana ha approvato una legge per l'assunzione a tempo indeterminato di 20.000 precari, dipendenti degli enti locali, soprattutto i comuni, in alcuni casi da oltre 20 anni, nella maggior parte mai passati sotto le forche caudine di un concorso. Questo il quadro per quanto riguarda il Sole 24 Ore, che presenta ancora l'SOS IMU, quindi una guida sempre come per quanto riguarda appunto l'imposta sugli immobili, la nuova imposta sugli immobili, e poi un titolo sul crack da 400 milioni per le holding dei Ligresti, dichiarato il fallimento. La Stampa punta invece proprio sul decreto sviluppo, la terapia anticrisi di Monti, tagli per 30 miliardi ai ministeri e bonus edilizia più alti, oggi il decreto. Si parla anche di Grecia, se il voto va male le banche centrali interverranno e poi è interessante questa analisi, questa sorta di inchiesta della stampa sulle reazioni al calo dei consumi petroliferi, al calo dei consumi della benzina, in particolare dei carburanti, benzina guerra degli sconti, meno 20 centesimi al litro nei fine settimana per due società, Asso Petroli al garante, un freno alla concorrenza. C'è un titolo forte dedicato all'Egitto che è ad un bivio, sciolto il Parlamento, un colpo di Stato, spazio forte, intendiamo che la parte alta della pagina, addirittura sopra la questione del decreto sviluppo. Il Messaggero, l'euro non è ancora al sicuro, titolo quindi di apertura su Hollande Monti. A centropagina si sceglie il tema della corruzione via libera alla Camera, il PDL che chiede ora responsabilità dei giudici. Il Messaggero intervista il vicepresidente del CSM Michele Vietti, una riforma importante, bene, l'incandidabilità dei condannati. E una storia presente al Messaggero che arriva da Roma, Alberto Sordi rinasce, il suo archivio sarà conservato alla Cineteca Nazionale. Questo è il quadro per quanto riguarda il Messaggero. Ovviamente tutti hanno un titolo sull'Italia, il pareggio amaro, la qualificazione a rischio. Dunque andiamo a vedere come decide di aprire la Gazzetta dello Sport. Il titolo è Pari e guai. La scelta della foto è sostanzialmente la medesima, sempre la stessa foto di Pirlo della quale vi descrivevamo poco fa, foto che campeggia praticamente su tutti i quotidiani italiani, o quasi, fatta salva la Repubblica che ripropone come foto il momento del gol. Pari e guai, ora qualificazione complicata con l'incubo del cosiddetto biscotto. Che cos'è il biscotto? Il fatto che Spagna e Croazia si possano mettere d'accordo per l'ultima partita, fare pareggiare 2-2 o di più, 3-3, 4-4 e di fatto spedirci fuori. Invece una vittoria spagnola o croata ci farebbe passare come secondi del girone, così come una vittoria così come un pareggio 1-1 e una nostra vittoria con l'Irlanda con più di 3 gol. Naturalmente sulla Gazzetta spazio anche a Thiago Silva che resta al Milan. Veniamo a qualche altro giornale brevemente prima di fermarci un attimo. C'è l'Unità, decide un'apertura sulla corruzione, il governo alla prova, legge sì dalla Camera ma il PDL minaccia, ci ammanettano, va cambiata. Un commento in prima pagina di Luca Landò, chi non vuole questa legge. Interessante il dibattito all'interno del Partito Democratico su etica e politica, vita, persona e unioni civili, il PD discute sul documento, mentre decide di puntare per quanto riguarda le dismissioni, tre fondi per le dismissioni, decide di puntare su questo il titolo economico, l'Unità. Il Fatto Quotidiano, niente crisi per la casta, così buttano i nostri soldi, la Polverini e la fabbrica dei consulenti del Lazio, politici trombati e vicini di casa, contro i terremoti la Gelmini piazza un suo protetto laureato in educazione fisica. EMPAM, nell'istituto previdenziale dei medici un buco da 500 milioni, Regione Piemonte, niente curriculum per il portaborse dirigente dei trasporti, ambiente, poltrone scalata ministeriale del fedelissimo della Prestigiacomo, Termoli, corso di Facebook e Twitter da 20.000 euro per i dipendenti comunali. La corruzione, l'anticorruzione è un bluff, titola il Fatto Quotidiano. Infine veniamo al Giornale, che apre con un sondaggio realizzato presso il loro sito. E che cosa riguarda questo sondaggio? Riguarda il ritorno alla lira. Tanta voglia di lira, sondaggio sul giornale.it. Monti ottiene la fiducia di Hollande e Merkel, ma l'euro perde quella degli italiani. 7 elettori su 10 sognano il vecchio conio. Il DDL corruzione passa, però in 120 non lo votano. Prove tecniche di sfiducia. A centropagina, foto dell'Italia. Italia pari, indigesto, aspettando il biscotto, che dunque si guadagna la qualifica di parola del giorno. Con questo chiudiamo e ci ritroviamo tra un attimo con le notizie in breve. Prima edizione. Sono le 6:37, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 15 di giugno, riparte una nuova giornata di Italia in controluce con Daniele Biacchesi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora c'è Piera Ceci con Scuola in controluce, il nostro focus nel mondo della scuola. Scuola in controluce. 5 giorni alla prima prova dell'esame di maturità, le paure dei ragazzi nelle voci raccolte da Lucio Bondì. La maturità è un po' un'ansia perché i professori ti riempiono di informazioni già dall'inizio dell'anno, mettendoti un'angoscia pazzesca già da novembre, e adesso che mancano più o meno 2 settimane, boh, si sente veramente che bisogna iniziare a studiare in modo più serio. Pesante. No, vabbè, cioè è stressante, però alla fine l'hanno fatta tutti, quindi speriamo di farcela anche noi. Però ho un po' di paura perché comunque influiscono un sacco di fattori esterni che, cioè, non puoi controllare, tipo i commissari, le prove che mandano da Roma, che magari non rientrano nel tuo programma, e poi matematica che è in seconda prova. Cioè, proprio... Ma più che paura, io ho ansia di dover studiare tutta quella roba e inizio a confondere le materie, gli argomenti, inizio a fare i mix. Tanto studio di sicuro, ma la maturità non è solo questo. L'esame infatti costa in termini di fatica, ma anche di quattrini. Scuola.net ha fatto qualche calcolo. Daniele Grassucci. Può essere una spesa che può arrivare anche a 400-500 euro a seconda di quanto gli studenti hanno bisogno di un sostegno, che può essere un sostegno in ripetizione private, che può essere un sostegno ad esempio per realizzare la tesina oppure per aggiornare la dotazione con cui presentarsi all'esame. E in più c'è il tanto contestato contributo scolastico, che dovrebbe essere volontario, infatti viene richiesto solamente per i candidati privatisti e qualora le prove d'esame richiedano anche una prova di laboratorio, quindi come rimborso spese, però abbiamo scoperto invece essere richiesto con una certa frequenza anche laddove queste condizioni non si presentano. Torniamo per un attimo invece alla nota dolente delle ripetizioni e insomma del sostegno allo studio per la maturità. Quanto spendono questi ragazzi? Allora, innanzitutto dobbiamo capire quanti prenderanno ripetizioni proprio per l'esame di maturità, e stiamo parlando circa di un terzo degli intervistati, però di questi alcuni, circa un 10%, prenderà più di 12 ore di ripetizione, quindi stando al prezzo medio delle ripetizioni intorno alle 15 euro l'ora, stiamo parlando comunque di una cifra che può superare tranquillamente i 300 euro. Quindi questo per le ripetizioni private, poi c'è la benedetta tesina, no? Che bisogna presentare. Sì, la tesina rappresenta uno degli scogli più temuti da parte degli studenti, perché sono abituati per anni a studiare tutte le materie separatamente, perché la nostra scuola è organizzata così, non ci sono ore di compresenza, oppure queste sono molto limitate, specifiche per alcuni indirizzi. Quindi per la prima volta all'esame di maturità gli viene richiesto di trattare tutte le materie in un unico discorso, che peraltro poi abbia una durata anche abbastanza limitata, stiamo parlando di 20 minuti, mezz'ora. Quindi gli studenti si trovano in difficoltà di sintesi e di collegamento tra le varie materie. Ed è per questo abbiamo scoperto che uno studente su 5 sarebbe disposto a pagare anche oltre 30 euro per farsi aiutare appunto nella redazione della tesina, e ci sono anche degli operatori in rete che vendono delle tesine pronte e fatte, e quindi gli studenti potrebbero cedere alla tentazione e acquistarle. La prima puntata di Italia in controluce nella mattina di Radio 24, torniamo oggi alle 13:30 con nuove storie. Le 6:41 minuti e facciamo, come spesso stiamo facendo in questi giorni per ovvi motivi, un punto sui mercati e sulla situazione europea, sempre con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, partiamo dall'Asia, come di consueto, un'apertura positiva anche se piuttosto debole, andamento confermato in questo momento con Tokyo che è proprio in parità, possiamo dire, perché guadagnano 0,02%, quindi, e tra l'altro si avvia alla chiusura tra poco, quindi poi staremo a vedere che cosa succederà in Europa. Europa che ieri comunque ha visto sul finale un recupero delle piazze, addirittura Milano ha chiuso con un rialzo di quasi 1,5%, questo grazie anche ad alcuni sondaggi che sono venuti fuori dalla Grecia. Si parla di un sondaggio segreto condotto dal partito di centrodestra Nuova Democrazia che dava la formazione al 29% delle preferenze per le elezioni di domenica prossima, un appuntamento a cui ormai si guarda con una certa ansia. E addirittura la borsa di Atene ieri è letteralmente volata, ha toccato in chiusura un più 12,55%, che è il maggior rialzo giornaliero da 10 mesi a questa parte. Siriza, che invece la formazione di sinistra che avversa queste condizioni concordate con l'Europa, sarebbe al 26%. Diciamo che questi dati hanno dato fiducia ai listini e vedremo se poi oggi questo sarà confermato. Ieri è stata una giornata anche dal punto di vista politico per l'Europa piuttosto importante, perché c'è stato l'incontro Monti-Hollande e, come era prevedibile, i due si sono capiti su molte questioni. Intanto che l'euro non è ancora al riparo dalle turbulenze dei mercati e per questo Hollande ha detto che al vertice europeo di fine mese non accetterà delle mezze misure, servono dei meccanismi stabili e durevoli, ha detto Hollande, con risorse sufficienti. Però il tutto questo... Quindi questa, la mediazione viene rimandata a Monti, sì. La mediazione con la Merkel. Naturalmente, e però ci sono dei segnali di apertura. Assolutamente, questa mattina, ecco, perché il fatto che venga rimandata a Monti la mediazione fa sì che comunque Monti sia forte non solo di un suo buon rapporto con la cancelliera, ma anche di un appoggio che gli viene oggi dal presidente della Bundesbank, che ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera. Weidmann ha detto che Roma ha fatto sta facendo ancora delle riforme molto importanti, la strada è quella giusta, che è vero che la moneta unica corre dei rischi, ma proprio per questo è questo il momento di fare il grande passo per l'Europa, quindi il passo in avanti, quello della maggiore unione, cedendo sovranità, e solo così sarà possibile pensare agli eurobond, che poi è la misura a cui pensano un po' tutti, da Hollande a Monti. Insomma, diciamo che questa potrebbe essere per molti la soluzione per l'Europa. In tutto questo dobbiamo dire che la Gran Bretagna, che pur essendo nell'Unione è fuori dall'euro, si sta già muovendo, perché non solo ha dei problemi al proprio interno, perché anche l'Inghilterra ha problemi di rallentamento di crescita e anche di disoccupazione, ma teme moltissimo questa crisi dei debiti sovrani in Europa, per cui secondo quanto dichiarato ieri da Osborne, che possiamo sentire in questo appunto intervento che ha rilasciato alla TV inglese, la Banca d'Inghilterra starebbe preparando un piano da 100 miliardi di sterline da immettere sul mercato, quindi liquidità per aiutare, per sostenere i mutui, per sostenere anche le imprese, per far fronte a quella che potrebbe essere un aggravarsi della crisi europea. Grazie dunque alla nostra Valeria De Rosa. Adesso andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo per fare il punto sulla situazione in Egitto invece. Prima edizione. Le 6:46 minuti, un punto rapido sulla situazione in Egitto con la nostra Katia Caramelli. Katia, dunque, che cosa è successo? Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Se al ballottaggio per le presidenziali di domani e domenica ci saranno irregolarità nel voto, questo scatenerà una grande rivoluzione. Le parole del candidato dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi, danno un po' il senso. Morsi ha aggiunto che le sentenze della Corte Suprema indicano che c'è chi si sta battendo per un piano maligno contro il popolo. Quali sono le sentenze a cui si riferisce Morsi, che è il candidato Stato dei Fratelli Musulmani, quella innanzitutto che ha annullato la legge sull'isolamento politico che avrebbe impedito al suo rivale l'ex premier Ahmed Shafiq di candidarsi in quanto membro del vecchio regime, e l'altra che ha sciolto il Parlamento dominato per il 70% da forze islamiste. Dunque ci saranno nuove elezioni in autunno. A poche ore dunque dal voto l'esito resta ancora molto incerto. Ne uscirà favorito Morsi, che ha già escluso di ritirarsi dalla sfida? Diventerà presidente Shafiq, che si è già affrettato a convocare una conferenza stampa da vincitore parlando di giornata storica e che comunque i sondaggi danno in grande risalita? Crescerà il blocco liberale, che poi è un po' l'erede di piazza Tahrir? Staremo a vedere. Ricordiamo soltanto che il primo turno è stato dominato dall'astensione e questo aveva favorito il candidato dei Fratelli Musulmani Morsi, anche se di pochissimo. Aveva ottenuto infatti il 25% dei voti, seguito da Shafiq con il 24%. Questo è quanto. E grazie anche a Katia Caramelli, e noi torniamo sull'economia. Torniamo sull'economia perché oggi è una giornata nella quale finalmente dovrebbe arrivare il famoso decreto sviluppo, e tra tante indiscrezioni, tante cose che sono girate, facciamo il gioco delle indiscrezioni anche questa mattina e sentiamo con la nostra Anna Marino che cosa dovrebbe contenere questo decreto per la crescita. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Arriva al traguardo, sembra appunto, il decreto sviluppo. Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per dare il via libera alla terapia anticrisi voluta da Monti. I punti chiave che vengono appunto fuori, come dici tu, dalle indiscrezioni, dalle ricostruzioni anche giornalistiche, sono casa, occupazione, crescita e imprese. Sono in tutto, sembrano essere appunto 55 articoli. In primo piano c'è il bonus ristrutturazioni più consistente. Il bonus, infatti, quello IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, sale dal 36 al 50% con tetto di 96.000 euro, ma solo fino al 30 giugno 2013. Un nuovo prelievo sulle assicurazioni straniere finanzierà questo aumento degli sgravi per l'edilizia, davvero consistente. Poi c'è la proroga di 6 mesi, ma con una riduzione, una penalizzazione per l'efficienza energetica, scende dal 55 al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno 2013. Altra voce importante sulla casa, l'esenzione IMU triennale sugli immobili invenduti, che sono proposti al mercato per meno di 200.000 euro. E poi c'è un piano città per trasformare le aree degradate e favorire la ripresa di queste città. Il fondo crescita è importante, con cui si dà l'addio a 43 sussidi considerati ormai sorpassati per convogliare tutte le risorse in un unico fondo, che ha l'obiettivo di creare appunto crescita sostenibile e occupazione di qualità. E proprio per l'occupazione di qualità arriva anche un bonus del 35% di sconto per l'assunzione di giovani qualificati. Ci sono anche le imprese. Imprese, mini bond per le PMI e che appunto possono rivolgersi anche al, diciamo, al mercato per finanziarsi, e un fallimento, diciamo, allontanato grazie a agevolazioni, grazie al fatto che prima dichiarare il fallimento si può accedere al concordato preventivo. Grazie alla nostra Anna Marino, grazie a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il GR. Prima edizione torna lunedì.